Mezzogiorno di Simone Spezia. Sul 25 aprile si fonda la Repubblica, dice il presidente Mattarella nel celebrare la liberazione, e anche su questo si monta la polemica politica. Salvini attacca lo stesso Mattarella, Boldrini e Renzi. Ipocriti, c'è l'occupazione straniera dell'Unione Europea. Intanto dal lato dei cortei la Brigata Ebraica non va a quello di Roma, troppi attacchi dagli attivisti filo-palestinesi, dicono. Dopo la vittoria della destra, l'Austria guarda al secondo turno delle presidenziali verso una convergenza sul candidato dei Verdi. Ieri tensione al Brennero. E di rifugiati, oltre che di Libia, parleranno oggi Obama, Renzi, Cameron, Hollande e Merkel. Vertice ad Hannover, il presidente del Consiglio chiama il premier libico. Le voci dei bambini danno fastidio, il condominio fa causa all'asilo e la vince, è sfrattata una materna a Milano. Le titolari, abbiamo investito 300.000 euro, ora come si fa? Roma e Napoli in campo tra un paio d'ore, partita decisiva per il secondo posto in campionato. Intanto si celebra la vittoria di Rossi nella MotoGP in Spagna. Una buona giornata da Simone Spezia e benvenuti a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Buon 25 aprile, buona festa della liberazione a tutti. I nostri contatti sono il 349-238-6666 per i vostri sms, per i vostri messaggi su WhatsApp. C'è anche il nostro canale Telegram, telegram.me/effettogiorno. Iniziamo dunque dalla liberazione. Questa mattina il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha aperto la giornata delle celebrazioni all'Altare della Patria. Gran parte dei cortei saranno nel pomeriggio, ma come già vi dicevamo nei titoli, monta come sempre un po' di polemica. Vediamo di fare il punto su queste celebrazioni e anche sulle parole di Matteo Salvini con Elisabetta Fiorito. Elisabetta, buongiorno. Sì, buongiorno. Celebrazione in tutta Italia per il 25 aprile, iniziata con la deposizione della corona di fiori all'Altare della Patria a Roma in Piazza Venezia da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Musei aperti in tutta Italia per ricordare la festa della liberazione, ma sentiamo quanto ha detto il Capo dello Stato. È sempre tempo di resistenza, perché guerre e violenze crudeli si manifestano ai confini d'Europa, in Mediterraneo, in Medio Oriente. E ovunque sia tempo di martirio, di tirannia, di tragedie umanitarie che accompagnano i conflitti, lì vanno affermati i valori della resistenza. Per il Presidente del Consiglio Matteo Renzi, l'antifascismo è l'elemento costitutivo e irrinunciabile della nostra società, giusto tenere alta la guardia, andarono a combattere per la libertà il paese dal nazifascismo e riscattare la nostra dignità, scrive su Twitter il presidente del Senato Pietro Grasso, ma come voce contro da segnalare quella di Matteo Salvini della Lega, che dà degli ipocriti a Renzi, Boldrini e Mattarella, sfruttando il sacrificio di chi diede la vita per cacciare dall'Italia l'occupante straniero in nome della libertà. Oggi sono complici, secondo Salvini, di una nuova e violenta occupazione straniera, servi di un'Unione Europea che ci sta rubando lavoro, diritti, sicurezza e speranza nel futuro. Parole che sicuramente scaturiranno una polemica. A te, Simone. Grazie Elisabetta Fiorito per questo aggiornamento e continuiamo a parlare di 25 aprile. Come sentivate, se ne discute tanto, il nostro Dario Ceccarelli. Una mattina mi sto svegliato. Questa mattina, 25 aprile, ci siamo svegliati e abbiamo detto: ah già, è il 25 aprile. Naturalmente dipende da chi lo dice. Se lo dice un ragazzo, uno della generazione perduta di Tito Boeri, dovrà fare un bello sforzo per inquadrare cosa si festeggia. La scuola non l'aiuta, le istituzioni non parliamone, le famiglie, ma... Se invece andiamo tra gli anziani, allora ci si divide in due. Chi dice che il 25 aprile è sacro, aggiungendo che si è persa la memoria, e chi invece, dall'altra parte, che fanno festa solo i vincitori, che i vinti sono demonizzati, che basta con questa retorica della vittoria che riapre sempre nuove ferite. Ma nella maggioranza dei casi, quella che dovrebbe comunque essere una festa, una liberazione dal pesante buio di una dittatura, da noi diventa un involucro vuoto, segnalato alla vigilia solo perché è un ponte, il ponte del 25 aprile, con le raccomandazioni meteo per chi va in vacanza. In Italia, a differenza di altri paesi vicini come la Francia, è difficile condividere e festeggiare le tappe importanti della nostra storia. Questa politica così corrotta e sbiadita di ideali fa danni pesanti. Così qualcuno, per uscire dall'impasse, fa come il sindaco di Firenze Nardella, che ha dedicato il 25 aprile alle donne. Ma perché il 25 aprile è per tutti, donne, uomini, ragazzi, godiamocelo così com'è, una volta tanto, con un sano scatto d'orgoglio. Dario Ceccarelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Auspicio che, come avete sentito, non è stato un granché rispettato. Ci spostiamo in Austria, dove la destra anti-immigrati si è aggiudicata, come sapete, il primo turno delle presidenziali. Fuori dal ballottaggio i candidati dei partiti tradizionali, a contendere la massima carica dello Stato a Hofer saranno i Verdi. L'Austria vira a destra nel primo turno delle elezioni presidenziali con Norbert Hofer, l'erede di Jörg Haider, che raccoglie il 36% dei voti. Secondo arriva Alexander Van der Bellen, il candidato verde, che con il 21% dei consensi andrà al ballottaggio il 22 maggio. Ma che accadrà a quel punto? Probabilmente i voti dei partiti tradizionali, i socialdemocratici e i popolari, usciti con le ossa rotte dal voto, confluiranno sul candidato verde per fermare l'onda xenofoba. La stessa manovra che consentì a Jacques Chirac di vincere su Jean-Marie Le Pen nelle presidenziali francesi del 2002. La storia si ripete, ma i problemi non sembrano trovare una soluzione condivisa. Unica consolazione, l'Austria potrebbe avere, nella crisi dei migranti, il primo presidente verde del vecchio continente. Vittorio Darol, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ci sono anche i rifugiati, oltre che la Libia, al centro dei colloqui ad Hannover tra Merkel, Hollande, Renzi, Cameron e Obama. Barack Obama conclude oggi il viaggio europeo e, dopo aver incontrato Angela Merkel, vedrà nel primo pomeriggio ad Hannover gli altri partner europei. Al vertice informale ci saranno la cancelliera tedesca, il premier italiano Matteo Renzi, l'inglese David Cameron e il presidente francese François Hollande. La crisi in Siria, il flusso di migranti, la cooperazione contro i terroristi di ISIS, la stabilizzazione della Libia sono i temi al centro dell'incontro. Obama ha annunciato l'invio di altri 250 uomini in Siria, tra forze speciali ed intelligence, e ha voluto dare il suo appoggio alla Germania nella difficile gestione dell'emergenza profughi. Ma con i populismi in crescita, come dimostra l'affermazione in Austria dell'estrema destra xenofoba di Norbert Hofer, i grandi d'Europa hanno bisogno di un piano per gestire l'enorme afflusso di migranti che potrebbe riprendere dalla rotta sud verso l'Italia. Per questo uno snodo importante è la Libia, dove si è da poco insediato il governo di unità nazionale. L'Italia è pronta a svolgere un ruolo di leadership nel sostegno all'esecutivo libico e, in vista del vertice, questa mattina Renzi ha avuto un colloquio telefonico con il premier libico Fayez al-Serrahi. In questo contesto un ruolo importante spetta alla NATO, che a luglio potrebbe approvare il coordinamento per impiegare i suoi mezzi nell'emergenza dei migranti in partenza dalla Libia. Sul tavolo dell'Europa, inoltre, c'è il Migration Compact proposto da Palazzo Chigi, un pacchetto di misure organico per affrontare l'emergenza profughi con aiuti ai paesi di provenienza. Roberta Miraglia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ed è notizia di poco fa che il Consiglio presidenziale libico ha chiesto alle Nazioni Unite, ai paesi europei e a quelli africani confinanti aiuti per proteggere le risorse petrolifere del paese. Due giorni fa, lo ricordiamo, l'ISIS ha lanciato una nuova offensiva nei pressi dei pozzi di Brega. Vedremo come risponderà la comunità internazionale. Dal lato della politica si continua a discutere del rapporto tra politica e giustizia. Appunto, ne ha parlato questa mattina l'ex presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, Luca Palamara, intervenuto da Giovanni Minoli a Mix 24. Sentiamo. Ma la NM è tutta schierata sulla linea di Davigo? C'è stato un dibattito in questi giorni, io sono rimasto anche stupito del fatto che nella giornata di ieri si è molto parlato di questo tema, di questa discussione. Ci sono stati dei comunicati, c'è stato il comunicato di Aria, c'è stato il comunicato di Magistratura Indipendente. Cioè sono posizioni differenti? Sono state delle posizioni differenti, dove hanno rimarcato la diversità di opinioni, ecco, di idee rispetto a quelle che erano state espresse le opinioni rispetto al Presidente Davigo. Poi a certa stampa, questo me lo lasci dire, fa piacere enfatizzare le singole posizioni individuali. Vabbè, ognuno con la sua sensibilità, certo, naturalmente. Ci mancherebbe altro, però bisognerebbe dare realmente il quadro di quella che è la situazione interna. La cronaca: c'è stata una scossa di terremoto di magnitudo 3.6 questa mattina al Mugello a Firenze alle 9.47, una profondità di 5 km secondo quanto si spiega sul sito dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. I comuni più vicini all'epicentro sono Fiorenzuola e Scarperia, molte persone sono scese in strada, non si hanno notizie al momento di danneggiamenti a persone e cose, ovviamente come sempre in questi casi molte telefonate ai vigili del fuoco. Per restare sulla cronaca ci occupiamo di Genova. Dopo l'allarme dei giorni scorsi per il petrolio, ve l'abbiamo raccontato anche venerdì, che sembrava che stesse per arrivare in mare, ebbene la situazione è tornata sostanzialmente alla normalità. Ne chiediamo conferma a Giovanni Calvelli, che è capitano di fregata e capo ufficio relazioni esterne della Guardia Costiera di Genova. Buongiorno e benvenuto, capitano. Buongiorno, buongiorno a tutti i radioascoltatori di Radio 24. Allora, tutto a posto, ci sembra di capire. Sì, diciamo che il pericolo è stato scongiurato, una battaglia che abbiamo condotto con tutti i mezzi a disposizione, anche quelli messi a disposizione dal Ministero dell'Ambiente a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza locale, la possiamo dire vinta oggi, perché le ricognizioni che stanno facendo i nostri mezzi navali e aerei ci danno una situazione di normalità lungo tutto il litorale. Le stanno continuando a fare comunque per sicurezza, mi sembra di capire. Assolutamente sì, sono in corso delle ricognizioni. Riteniamo che dal buon esito di queste ricognizioni nel corso della giornata si può anche dichiarare la cessazione dello stato di emergenza. Rimaneva, mi sembra di aver capito, una chiazza oleosa al largo di Varazze, ma anche là mi pare che fosse in dissolvimento, no? Assolutamente sì, è stata completamente recuperata, non c'è più nulla. Ho inviato anche delle immagini, ovviamente siamo sulla radio, non le potete vedere, ma ci sono delle immagini fatte, girate questa mattina da una nostra motovedetta, che mostrano come l'acqua sia tornata ad essere quella di sempre del Mar Ligure. La ringrazio, grazie a Giovanni Calvelli, capitano di fregata e capo ufficio delle relazioni esterne della Guardia Costiera di Genova, per averci aiutato a capire come vanno le cose in mare. Ovviamente rimane il problema della bonifica del torrente Polcevera, magari ci torneremo nei prossimi giorni anche per capire se ci sono problemi anche per quanto riguarda quanto sono vecchi gli impianti che si trovano in zona. Intanto passiamo allo sport con gli occhi che sono puntati sicuramente su Roma-Napoli, Carlo Genta, no? Roma-Napoli, perché potrebbe voler dire scudetto per la Juventus se Napoli non vince all'Olimpico, partita peraltro importantissima anche in chiave secondo posto, quindi per entrambe sarà una partita vera, sarà una partita molto tirata, e la Juventus è davanti alla televisione che aspetta il punteggio, il risultato finale di questa gara, per capire se dovrà festeggiare. Anche se Allegri ha detto che non la guardano perché si allenano. Tu ci credi? No, assolutamente. Io neanche, perché chiaramente potrebbe essere una partita scudetto e la Juventus a questo punto lo merita, visto lo score che ha inanellato. Ieri sera 2-1 a Firenze in una partita non semplice, con Buffon di nuovo grande protagonista. Possiamo cominciare a pensare che Buffon sia stato il miglior giocatore di questa Juventus nella stagione, di quello che potrebbe essere il quinto scudetto consecutivo. Non resta che aspettare, è un epilogo strano che casca di lunedì 25 di aprile alle 15, però Roma e Napoli in campo, vediamo cosa, e alle 5 facciamo i conti. Nel frattempo, Carlo, festeggiamo, ovviamente godiamo insieme a Valentino Rossi per quello che è successo ieri. Tantissimo insieme a Valentino Rossi, perché è andato a prendersi la prima vittoria stagionale in casa dei due contendenti, in casa degli spagnoli. Ha portato l'inno di Mameli a suonare nel cielo di Spagna, ma lui stesso l'ha detto senza troppe inibizioni: venire qui e salire sul gradino più alto del podio davanti, guardare questi due, Lorenzo e Marquez, dall'alto in basso, è stata una enorme soddisfazione. Non penso che, questo lo scopriremo tra un po', ma non penso che cambi molto nelle gerarchie dei favoriti per il titolo mondiale. Marquez rimane comunque il favorito numero uno, Lorenzo, che in settimana è passato alla Ducati e che ha la stessa moto di Valentino, è forse il principale contendente, ma adesso bisogna fare i conti con il dottore. Vedremo dunque come andrà anche questo campionato di MotoGP e vedremo come andrà Roma-Napoli. Intanto vi do l'appuntamento per tutti i convocati a partire dalle 14, sempre con il nostro Carlo Genta. Se non avete ancora deciso che cosa fare questo pomeriggio, sappiate che ci sono una serie di musei aperti. Oltre 320 luoghi, musei, monumenti e siti archeologici statali sono aperti oggi per una festa della liberazione all'insegna della cultura e sono tante le mostre da vedere in giro per la penisola. Alcune ve le suggeriamo noi. A Milano, dove è prevista l'apertura straordinaria anche per la 21esima esposizione internazionale della Triennale, al Pirelli Hangar Bicocca il primo grande murale realizzato in Italia da Os Gemeos, pseudonimo dei due gemelli Gustavo e Ottavio Pandolfo, artisti contemporanei brasiliani di livello internazionale. Roberta Tenco, curatrice di Pirelli Hangar Bicocca. Due muri perimetrali di uno spazio chiamato Cubo ed è la prima grande commissione all'aperto, sicuramente a Milano ma anche in Italia. A Mantova invece la prima produzione di Palazzo Te per Mantova, capitale della cultura, un'installazione che porta la firma di Stefano Rienti, quadri da un'esposizione alle Fruttiere fino al 26 giugno. Stefano Baia Curioni, presidente del Centro Internazionale d'Arte e Cultura di Palazzo Te. Usare il lavoro di un altro artista per comporre un'opera d'arte sempre un'operazione potenzialmente rischiosa, ma devo dire che Arienti ha fatto un lavoro pieno di poesia. E se a Torino il Museo Egizio ha appena festeggiato 1 milione di visitatori, appuntamento per 3 giorni con gli Harry Potter provenienti da tutta Italia al Museo della Magia di Cherasco in provincia di Cuneo. A Roma invece fino al 4 settembre il Maxi celebra con 200 opere i 50 anni di Super Studio, uno dei gruppi più influenti dell'architettura radicale italiana. A Pompei infine fino al 2 novembre le suggestioni dell'antico Egitto alla Palestra Grande con la mostra Il Nilo a Pompei. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. C'è il traffico adesso, ci risentiamo tra un attimo. Parleremo tra l'altro di questa storia che arriva da Milano, dove un asilo è stato sfrattato da un condominio e adesso non sanno dove andare. Perché? Perché sono stati sfrattati? Perché i bambini fanno troppo rumore. A tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Nella prima parte della trasmissione abbiamo parlato delle nuove polemiche politiche sul 25 aprile, abbiamo parlato dell'Austria e della vittoria della destra, abbiamo parlato dei rifugiati col vertice di Hannover di oggi, abbiamo parlato di calcio con Roma e Napoli che si affrontano tra circa un'ora e mezzo, un'ora e tre quarti. Adesso torniamo sul 25 aprile però e lo facciamo con Dario Venegoni, che è presidente dell'Austria, l'Associazione Nazionale Ex Deportati, figlio dei deportati. Tra l'altro, buongiorno e benvenuto Venegoni. Buongiorno a voi. Per parlare con lei di questa decisione della Brigata Ebraica che appunto partecipò alla Resistenza e ha deciso di non partecipare al corteo di oggi di Roma. Ci spiega come mai? Sì, intanto vorrei precisare che è una questione prettamente romana. Siamo a Milano, le cose tra mezz'ora andranno diversamente, conto. Lì la questione è stata semplice, che la manifestazione in Porta San Paolo è stata indetta da una selva di organizzazioni che si sono riunite un mese fa e hanno detto che, forti dei successi dell'anno scorso, quando appunto l'associazione degli ex deportati, la comunità ebraica, eccetera, sono state messe nelle condizioni di non partecipare al corteo, forte di questo bellissimo risultato, bisognava impedire anche quest'anno a quelli che hanno le bandiere che ricordano l'occupazione sionista della Palestina di partecipare al corteo del 25 aprile. Loro dicono il problema è il fatto che portino anche delle bandiere di Israele, no? Mi sembra di capire. No, non saranno loro a decidere che bandiere ci vogliono, perché se no mi devono spiegare perché ci devono essere le bandiere palestinesi. A me non fa impressione né che ci siano le une né che ci siano le altre. Mi fa impressione che ci siano dei gruppi violenti che hanno come manifesto quello di impedire fisicamente ad altri che hanno tutti i titoli di partecipare a una manifestazione del 25 aprile di farlo. Questo mi fa molta impressione. Perché mi sembra una violazione secca dello spirito del 25 aprile. Perché in passato chi è andato in manifestazione e in corteo con quelle insegne, con quelle bandiere, è stato insultato, no? È stato insultato, sono stati aggrediti, Ma io l'anno scorso a Milano ero al braccio di un partigiano superstite di Mauthausen. Non avete idea cosa non gli hanno gridato, perché sono anche ignoranti, bestie, e pensano che siccome tu sei un ex deportato, allora sei un ebreo, allora siccome sei un ebreo devi essere dalla parte di Israele e quindi devi essere insultato. Una serie di sillogismi assolutamente arbitrari che li ha portati a fischiare un partigiano comunista che è stato a Mauthausen. Questa è la verità. E quindi lei dice è un problema prettamente romano. Ma, prettamente romano nel senso che queste forze evidentemente a Roma hanno la forza di orientare la manifestazione del 25 aprile, che sovverchiando le organizzazioni storiche di coloro che la resistenza antifascista l'hanno fatta davvero. Senta, mi sembra di aver capito che c'è anche un certo silenzio da parte dell'ANPI, dell'Associazione Partigiani, su questo tema. Io non voglio discutere che cosa fa un'altra organizzazione alla quale sono molto legato. A Roma mi pare di capire che l'ANPI abbia dei grossi problemi, l'organizzazione romana è commissariata e molti dei problemi sono nati proprio l'anno scorso, il 25 aprile, quando è emersa la difficoltà della dirigenza di allora dell'ANPI di gestire una situazione così complessa, fino a consentire che una parte significativa della storia della resistenza italiana fosse cacciata dal corteo. Perché noi rivendichiamo il fatto che i deportati italiani in maggioranza sono stati partigiani antifascisti e che hanno pagato per questa loro partecipazione alla resistenza il prezzo più alto di tutti. La ringrazio, grazie per la sua testimonianza. Dario Venegoni, presidente dell'ANED, l'Associazione Nazionale Ex Deportati e figlio di deportati. Cinzia D'Alessandro, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori e a te. Titolare di un asilo, di una scuola materna, una delle due socie sostanzialmente, della scuola materna La Locomotiva di Momo. Siamo a Milano, in via Anfossi 36, ma forse non sarà più via Anfossi 36, perché i condomini hanno fatto causa, perché hanno detto ai bambini facevano un po' troppo rumore e quindi hanno deciso sostanzialmente di cacciarvi via e hanno vinto questa causa, è così, no? Sì, purtroppo diciamo che il primo grado ha dato ragione al condominio, nonostante in seguito ad una denuncia dei condomini all'ARPA, l'ARPA si è uscita e abbia certificato che noi non facciamo invece alcun tipo di rumore, non c'è alcun disturbo sonoro, ma io ti devo dire che onestamente questa storia ancora non me la spiego, perché era il terzo asilo che io realizzavo in un condominio, del resto il 90% degli asili a Milano sono condominiali e ho sempre avuto buoni rapporti con tutti, perché in realtà la nostra è un'attività che davvero non crea disturbo. In questo caso poi abbiamo anche un portone con un accesso separato, la struttura è completamente insonorizzata e consideriamo anche che dall'1 alle 3 i bambini dormono e comunque alle 6 siamo tutti a casa. Quindi, cioè, per cui in realtà credo che dall'interno non si sente niente perché è tutto insonorizzato, nulla, no? Nulla, esatto, tutto insonorizzato. Al limite un po' di casino quando si esce fuori. Ma in realtà neanche, perché poi sai, comunque gli orari di ingresso e di uscita sono molto elastici, è una fascia abbastanza grande, per cui non è che i genitori arrivano tutti insieme in massa. E poi ti devo dire che purtroppo, visto il clima di grave intolleranza, perché di questo si tratta, noi che puntiamo molto su quella struttura perché è di fronte al parco di Via Anfossi e quindi noi l'abbiamo scelto perché c'è la natura che è maestra di vita e portiamo i bambini tutti i giorni al parco, abbiamo dovuto trasformare la mortificazione di essere aggrediti da alcuni condomini, noi e i bambini, in una risorsa educativa, quindi questi bambini escono facendo la bolla del silenzio e attraversiamo il vialetto condominiale senza arrecare neanche in quel caso, ma poi di che disturbo stiamo parlando? Allora, tra l'altro qua c'è anche un problema di investimento, un problema banalmente economico, nel senso che voi ci avete investito mi pare 300.000 euro per realizzare. Perché noi abbiamo voluto realizzare quello che ritenevamo essere la struttura ideale per il nostro tipo di progetto educativo e l'abbiamo fatto al meglio, con tutti gli standard qualitativi possibile, abbiamo avuto riconoscimenti da tutti gli enti, compresi i vigili del fuoco che ci hanno fatto i complimenti perché siamo al di sopra degli standard. Ma oltretutto non c'è solo il problema mio, di mia sorella, che abbiamo investito considerando in una vita duratura in quella sede, c'è il problema di 21 persone che sono assunte da noi con contratti stabili, siamo una famiglia educativa e non riusciamo a capacitarci del fatto che potremmo non avere più quel posto per lavorare e nessun altro posto, perché senza contare il centinaio di bambini che si ritrovano senza di famiglie che si trovano senza asilo, senza che hanno creduto in noi, che hanno creduto in noi, perché sono tante le persone che credono in noi e anche il quartiere ci è affezionato. Ovviamente ricorrerete quando inizia l'appello? Allora, guarda, noi siamo stati 2 settimane fa in corte d'appello, avevamo chiesto ai giudici di darci la sospensiva per poter arrivare alla sentenza dell'appello incolumi, perché il problema è che al giorno d'oggi, con la sentenza di primo grado, noi dovremmo chiudere, andare in fallimento e poi eventualmente riaprire con l'appello, ed è chiaramente impossibile, non è pensabile. Certo. Quindi noi, siccome i giudici hanno offerto una mediazione che per noi in realtà è inaccettabile, cioè andarcene fra 3 anni, noi vogliamo tornare dai giudici a luglio e dire: scusate, ma noi abbiamo tutti i diritti di stare lì, noi non abbiamo ancora capito perché ce ne dobbiamo andare, né da un punto di vista giuridico né da un punto di vista poi pragmatico. Noi cerchiamo il dialogo, vogliamo stare bene, cioè non... vogliamo che anche gli altri stiano bene, siamo certi di non dare fastidio a nessuno. Vedremo come andrà a finire questa vicenda, magari ci risentiremo. Cinzia D'Alessandro, titolare insieme alla sorella Giuliana dell'asilo nido di Milano La Locomotiva di Momo. Noi adesso ci fermiamo, ci ritroviamo come sempre per fare un punto sui mercati e nella seconda parte della trasmissione parleremo dell'accoglienza da parte delle parrocchie. Lo sapete, il Papa ha lanciato un appello, ha detto: le parrocchie accolgano i rifugiati. Oggi il Corriere della Sera nella sua edizione bolognese riporta i dati per quanto riguarda Bologna. Su 400 parrocchie solo 9 hanno dato accoglienza ai rifugiati. Ne parliamo tra poco con un parroco tra quelli che hanno dato accoglienza. Tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. I nostri titoli: sul 25 aprile si fonda la Repubblica, dice il presidente Mattarella nel celebrare la liberazione, Salvini lo attacca, ipocrita, c'è l'occupazione straniera dell'Unione Europea. Dopo la vittoria della destra, l'Austria guarda al secondo turno delle presidenziali verso una convergenza sul candidato dei Verdi, ieri tensione al Brennero. I rifugiati, oltre che di Libia, parleranno oggi Obama, Renzi, Cameron, Hollande e Merkel. Vertice ad Hannover, il presidente del Consiglio ha sentito questa mattina il premier libico. Roma e Napoli in campo tra 1 ora e mezza, partita decisiva per il secondo posto in campionato. La borsa. Fineco, la banca numero 1 in Europa nel trading, vi presenta... Effetto giorno. Era il 6 settembre dell'anno scorso, Papa Francesco durante l'Angelus diceva: ogni parrocchia ospiti una famiglia di profughi. E rispetto a questa intenzione siamo ben indietro. Se i dati che cita oggi il Corriere della Sera, edizione bolognese, sono confermati, solo a Bologna 9 parrocchie su 400, il 2,2%, ospita dei rifugiati. Siamo in linea con Don Mario Fini, che è parroco della parrocchia di Santa Maria della Misericordia e di Sant'Anna a Bologna e che una famiglia di rifugiati la ospita. Don Mario, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi tutti. Ma come mai gli altri non lo fanno? Guardi, io penso che sia questione di ritardi, perché sicuramente molte parrocchie sono messe, diciamo così, a preparare questa possibilità. Di fatto noi siamo partiti perché di fatto una famiglia religiosa aveva la possibilità di una casetta e quindi ci siamo messi in contatto con la Caritas diocesana e così tutto è partito. Io sono parroco di 2 parrocchie, abbiamo cercato di fare un lavoro culturale per un discorso di riflessione su cosa voglia dire accogliere i migranti, i rifugiati, con la Caritas e altre persone della parrocchia, e quindi in questo senso pian piano si è realizzato che 2 persone della Guinea Conakry sono ospiti in questa casetta, uno dei quali è un giovane di 21 anni, Mohamed, l'altro è un 29enne, Saidu, sì, che è sposato e ha figli ed è sarto, quindi in qualche modo lavora qui nella parrocchia dove abbiamo la possibilità di locali, ha un suo piccola sartoria, di fatto quindi, una famiglia... Quindi lei dice, mi scusi Don Mario, quindi lei dice non è una questione di cattiva volontà da parte dei suoi, mi permette l'espressione, colleghi, ma è una questione di organizzazione. Sì, penso la maggioranza sì, so di altre persone che sono mosse, perché tutto passa attraverso la Caritas, in rapporto poi evidentemente alla prefettura, quindi quando persone sono pronte per passare a questa accoglienza, perché in fondo a noi chiesa viene chiesto giustamente quel passaggio dopo che sono passati attraverso le varie istituzioni, quindi di persone per integrarle nelle nostre comunità, perché il punto vero non è l'accoglienza semplicemente, ma come integrare queste persone nelle nostre comunità, per questo certo. Che chiedono sempre la Caritas una famiglia di riferimento, infatti anche noi abbiamo una famiglia di riferimento che ha già accolto anche in casa all'incontro con questa famiglia che ha 4 figli, quindi di fatto in questa fase non sono tantissimi, diciamo, cioè, i rifugiati che sono già arrivati alla fase di poter dire bene, allora passano alle parrocchie dove vengono accolti, dove si tenta un lavoro di integrazione. Allora, vedremo che cosa succederà dunque nei prossimi mesi e se appunto effettivamente questo gap, per così dire, tra l'organizzazione e quello che succede riuscirà ad essere colmato. Intanto ringrazio Don Mario Fini, la linea a Mario Platero, poi ci ritroviamo alla fine per i saluti e poi come sempre ci sarà Autotrasporti.